Vediamo che il Movimento 5 Stelle, la coalizione di destra, pure il PD, continuano ad avere come blocco sociale di riferimento quello imprenditoriale, ma anche diciamo quella fascia di popolazione più ricca, a cui per esempio Di Maio strizza l'occhio dicendo che non ce l'ha con i ricchi e non ha nessuna intenzione di introdurre patrimoniali o tasse di successione. Tra l'altro ricordiamo che l'Italia è forse insieme alla Grecia l'unico paese dove non esistono, in Italia sono abolite proprio da Berlusconi. Dall'altro lato invece abbiamo, se vogliamo, Liberi Uguali, ma soprattutto Potere al Popolo, che guardano proprio un blocco sociale diciamo di riferimento, quali le classi subalterne, la classe lavoratrice, i disoccupati e anche gli studenti, quindi coloro che poi ancora non sono dentro il mondo del lavoro. Le proposte ovviamente cambiano nel momento in cui si propone da un lato un aumento della domanda aggregata sia per quanto riguarda gli investimenti pubblici in infrastrutture, forse potremmo cominciare a evitare le tragedie che abbiamo visto stamattina a Seggiano Piantello, e dall'altro lato però appunto abolizione di tutti quelli che sono i contratti precari, lavoro povero, e di conseguenza un aumento almeno della massa salariale, che l'Oxfam ci ricorda essere una delle leve strategiche per combattere realmente le diseguaglianze. Nel primo blocco che hai citato, quello che guarda la classe imprenditoriale, insomma, viene detto che gli sgravi e gli incentivi, ad esempio quelli già realizzati con il Jobs Act, ne abbiamo già parlato molto, oppure quelli promessi, ad esempio la flat tax, comunque è una forma di sgravio, serviranno a rilanciare investimenti e occupazione. Cosa dicono ad esempio i dati di Istat e Ocse su questo tema? Che queste dichiarazioni sono sicuramente false in termini di politica economica. Gli investimenti non si rilanciano con gli sgravi, così come l'occupazione non si rilancia né flessibilizzando maggiormente il mercato del lavoro né dando sgravi alle imprese. Quello che in realtà succede attraverso gli sgravi è un'accumulazione di profitti che possono poi essere tranquillamente reinvestiti non più nella produzione ma in strumenti e speculazioni finanziarie o anche immobiliari, e dall'altro una maggiore liquidità delle imprese, per esempio se pensiamo agli sgravi sui contratti a tutele crescenti, che di fatto creano occupazione in brevissimo periodo, poi non essendo vincolati a un aumento netto dell'occupazione hanno prodotto i loro frutti. Se vediamo quello successo tra il 2016 e il 2017 con l'aumento proporzionato dei contratti a termine, su cui tra l'altro ci sono anche gli sgravi, perché gli sgravi per il sud e per i giovani interessano anche il contratto a termine. La flat tax, diciamo, oltre a essere francamente incostituzionale, è proprio una delle politiche più classiste, quindi a favore dei ricchi, perché se andiamo a guardare le simulazioni fatte anche da Libero, che non mi sembra un giornale francamente di sinistra o per il progresso e la giustizia sociale, si vede che chi media 25.000 euro di reddito l'anno risparmia praticamente quasi niente, ma chi ha più di 1 milione di euro di guadagni l'anno ha un risparmio di circa 100.000 euro. Mi interesserebbe insieme a te mettere in relazione, se questa relazione c'è, non vorrei ovviamente forzarla, ad esempio quello che dice da un lato il Fondo Monetario Internazionale, che ieri ha lanciato l'allarme per povertà per i giovani europei, e da un lato, e dall'altro però magari segue, lo ha fatto il giorno prima, e propone e forse anche impone le cosiddette riforme, che sono quelle che abbiamo visto. C'è un filo secondo me invece di enorme contraddizione tra quello che è la ricerca accademica che si fa sugli aggregati economici e quello che poi invece politicamente queste istituzioni, e ci metto dentro anche l'Ocse che tramite il suo presidente Gurria ha ancora elogiato il Jobs Act, ma anche appunto il Fondo Monetario che chiede ancora vincoli di bilancio, chiede più flessibilità o comunque austerity a tutto spiano. Quello che sappiamo è che i giovani europei si stanno impoverendo perché appunto l'austerity è quella cosa per cui viene tagliato il welfare, non aumentano salari, non aumenta l'investimento pubblico in infrastrutture, non aumenta la domanda aggregata, e di conseguenza c'è un impoverimento soprattutto per coloro che di fatto si ritrovano oggi, no, in una società adulta che però è trasformata. Appunto non c'è nessuna coerenza, il filo conduttore è quello di mantenere disequilibri che vivono sia a livello internazionale, e se li guardiamo all'interno dell'Unione Europea non possiamo appunto non ricordare ancora una volta, no, questa grande segmentazione che c'è tra il nord e il sud Europa, nonostante però appunto quando parliamo poi di classe lavoratrice vediamo che anche in Germania c'è un aumento, no, forte delle diseguaglianze tra lavoratori poveri, quindi mini job, in Inghilterra i contratti a zero ore, francesi che vivono di contratti interinali, e invece diciamo quel pezzo che chiamiamo del ceto operaio, no, l'aristocrazia operaia, che invece corporativamente continua a guadagnare, se vogliamo bene, a riuscire anche a coinvolgere in termini di massa critica la politica a loro favore. L'altra cosa forse da dire su questo, appunto rispetto alle politiche di cui ci dicevamo, è questo continuo slogan, se vogliamo, perché questo è proprio uno slogan propagandistico per cui la detassazione dei profitti aumenta gli investimenti produttivi. Noi sappiamo che in Italia la tassa sui profitti, che l'IRES è diminuita, sono aumentate molte detassazioni, ad esempio proprio sugli investimenti, ma gli investimenti reali sono il 30% in meno meno rispetto all'inizio della crisi, quindi è in generale, se andiamo a guardare una serie storica anche più lunga, da quando questo processo, se vogliamo, no, neoliberista è iniziato a fine anni 70, diminuiscono le tasse sulle imprese, sui profitti, ma gli investimenti, il tasso di investimento diminuisce, soprattutto in paesi come l'Italia, che non ha mai avuto il coraggio politico, se vogliamo, di sfidare conflittualmente, no, la costruzione europea e i vincoli europei. Prima facevi riferimento a una ricetta, diciamo così, dell'Oxfam su come intervenire e in cosa consiste. L'aumento di ricchezza di cui ha potuto godere quell'1% più ricco della popolazione mondiale si sarebbe potuto portare fuori dalla povertà circa 800 milioni di persone. Ecco, con le stesse risorse, insomma. Sì. Con le stesse risorse. Cioè, se fossero state distribuite a 800 milioni di soggetti che oggi vivono in condizioni di povertà, avremmo potuto appunto portarli oltre la soglia. Però effettivamente pare che ormai la povertà sia un dato strutturale, lo dobbiamo accettare, e anzi più impoveriamo la gente meglio è. Questo però ci dice anche l'Oxfam, ma anche l'Ox, anche il Fondo Monetario ormai da molti anni: o aumentano e migliorano le condizioni materiali di chi sta peggio, quindi il 20-30% più povero della popolazione, o la crescita è destinata, no, a rimanere, diciamo, stagnante, no, con l'1, pochi decimali a cui ci stiamo abituando.